sick chick. She, I need chick. The she's part of makes me tick. Mama, clickety click, a sick chick. The high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sack. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stop, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a stitch. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She's a neat trick, but she bought a make me tick. Mama. Clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. Mama, I stick a chick. Ah, yeah. A stick chick. Mama. Clickety click a stick chick. Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. Un po' in ritardo, ma quest'oggi ho delle scusanti tecniche. Bene, sì, abbiamo cambiato mixer e quindi chissà come verranno i volumi. Magari sarà tutto incasinato, musica bassa, voce alta, al contrario, si sentirà tutto, non lo so. Ditemelo anche voi mandandomi un SMS oppure, non lo so, fatemi arrivare dei piccioni viaggiatori che mi dicono come si sente. In diretta, ovviamente, quindi quale prova migliore su Wombat Radio, ovviamente, o Radio Wombat. Oggi è mercoledì 12, no, 3, 13, sì, mercoledì 13 settembre e parliamo di città. Città varie, diciamo che oggi sarà un po' un viaggio attraverso le vie e le strade di alcune delle città, non direi principali, perché in realtà parliamo un po' di varie città, sia più grandi sia un po' più piccole, vari continenti, varie nazioni, insomma spaziamo un bel po'. E ci sarebbe da parlare ovviamente anche di Firenze, città che il nostro amato sindaco Nardella ci insegna che è una città che dobbiamo imparare, non è la città dello sballo. D'altra parte le studentesse americane, mi pare, almeno loro, mi pare ormai l'abbiano capito abbastanza bene che tipo di città è questa, e probabilmente saranno veramente molto grate della lezione che hanno ricevuto. C'è ben poco da ridere in questa città, grazie Nardella, ce ne siamo veramente accorti, non importava che ce lo ribadissi. A Firenze in realtà dedicherò una puntata monografica a parte, a sé stante, quindi insomma niente Firenze, lasciamola lì dove sta, meglio così, anche perché in questi giorni non è che è proprio appunto la città dello sballo, come si diceva. Quindi proseguiamo con un'altra città ben più grande, perché arriviamo subito, almeno ce la giochiamo, fin da subito, dalle prime battute, New York. Arriviamo a New York con i Daddy Long Legs, gruppo che vi ho già fatto ascoltare in più di un'occasione, se non mi ricordo male. Un gruppo blues punk che a me piacciono un bel po', con la loro New York City. Loro sono proprio un trio di Brooklyn, quindi insomma sanno di cosa stanno parlando. L'album è Blood from a Stone del 2014, Daddy Long Legs. Yeah. Questa era New York vista dai Dead Long Legs, appunto. Mi arrivano un po' di dritte sul fatto che più o meno si senticchia abbastanza bene e speriamo appunto che sia così, do retta ai vostri orecchi, anzi vi ringrazio. E proseguiamo invece con un'altra città, abbandoniamo gli Stati Uniti, abbandoniamo New York subito, subito come ci siamo arrivati, andiamocene subito, e arriviamo in Europa, torniamo in Europa e in particolare a Mostar. In realtà più che di una intera città, poi sì, di fatto parleremo anche dell'intera città, parliamo di un ponte, lo Starry Most, che in italiano peraltro significa il vecchio ponte, si parlava prima di Firenze e chiaramente a noi fiorentini ci viene subito per assonanza in mente il ponte vecchio di Firenze, lo Starry Most, o appunto il vecchio ponte, o come lo chiamano gli abitanti anche soltanto il vecchio, è un ponte ottomano, di origine ottomana del XVI secolo, che appunto sta a Mostar in Bosnia e Erzegovina e venne commissionato dal sultano nel lontano 1557 per rimpiazzare un vecchio ponte sospeso di legno che stava crollando, non andava più bene. Fu completato in 9 anni. Dalla costruzione della costruzione del ponte si sa in realtà abbastanza poco. E è un po' quello che si sa, in realtà è un po' confuso con le leggende, perché poi lo vedremo, lo Starry Most è veramente un luogo importante e un po' simbolico per questa città fin dall'inizio, ma poi lo è diventato anche negli ultimi anni. Si conosce il nome del costruttore, che è un certo Mimar Khairuddin, chissà come sto leggendo le cose, che peraltro era discepolo del celebre architetto ottomano Sinan. Io di tutto ciò non ne so niente, ovviamente prendo e vi copio e incollo bovinamente da Wikipedia. Diciamo che però è importante perché, essendo gli stato ordinato di costruire un ponte di dimensioni senza precedenti in quegli anni, fra l'altro lo vedremo non soltanto in quei luoghi ma proprio in generale nel mondo intero, gli fu commissionato di costruire questo ponte appena la morte lo doveva fare, e quindi lui, che non ci credeva più di tanto neanche lui, o perlomeno insomma, come si dice a Firenze, meglio aver paura che buscanne, si preparò per il suo funerale il giorno stesso in cui l'impalcatura veniva tolta dalla struttura appena completata. Quindi insomma diciamo che lui si è messo un po' al riparo, insomma, si era messo l'anima in pace. Fra l'altro, in realtà, questa è storia, ma tutto il resto, o almeno molte cose, non si sanno e continueremo a non saperle. Ad esempio, non si ha idea del metodo che è stato utilizzato per erigere questa impalcatura e come fece a rimanere in piedi così tanto, perché appunto si parla di 9 anni, oppure non si conosce neanche il metodo utilizzato per trasportare le pietre da una parte all'altra del fiume, pietre che vedremo sono state usate, utilizzate, proprio state utilizzate le pietre del posto. Ma non è che vi voglio fare un episodio così, vi voglio raccontare un episodio di storia locale così a caso, ma il ponte, il vecchio cosiddetto, ovvero il vecchio ponte, lo Starry Most di Mostar, fu distrutto durante la guerra in Bosnia, appunto nel 1993. Molti se lo ricorderanno, almeno quelli con un po' più di anni. Le unità croate lo bombardarono per 2 giorni, finché il 9 novembre alle 10:15 di mattina il ponte crollò nel fiume. La distruzione di questo ponte in realtà fu l'apice della guerra di quel periodo, che appunto vedeva i croati contro quelli che fino al giorno prima erano amici, abitanti e in qualche modo pure alleati, i musulmani bosniaci. La situazione, ovviamente, la storia è ben più complessa di come ve la potrei raccontare io, anche perché non ho proprio gli strumenti per farlo, ma ci vogliamo concentrare almeno su questo simbolo che era il ponte di Mostar. La distruzione di questo ponte, ormai si sa, è stato appurato, aveva ben poca utilità dal punto di vista strategico e militare, In realtà, soprattutto dalla stampa occidentale, è stato raccontato come il ponte che divideva le due anime della città, ovvero quella cristiana e quella musulmana, non è vero. In realtà il confine non era lì, ma semmai era in un altro, in un'altra zona, in un altro luogo della città vecchia. In realtà le due zone ai due capi del ponte erano entrambe musulmane. Diciamo che in realtà il vero scopo della distruzione di questo ponte, scopo che peraltro fu perfettamente raggiunto, fu l'effetto psicologico immediato sulla popolazione musulmana di Mostar. Cito in qua e là da un articolo di Asra Nufendic, non ho assolutamente idea di come si pronuncia, perdonatemi, tratto dall'Osservatorio Balcani e Caucaso. Noi eravamo convinti che lo Starry Most fosse stato costruito per durare in eterno. Per questo la notizia della sua distruzione ci sembrava impossibile. All'inizio nessuno ci credeva. Il tragico evento ci ha segnato così tanto che la maggior parte di noi ricorda esattamente dove stava e cosa faceva nel momento in cui aveva appreso la notizia. Quando si sparse la notizia dell'abbattimento del vecchio, la gente di Mostra, assediata per un anno dai serbi ed esposta ai bombardamenti dei croati, mi viene da dire non solo i loro bombardamenti, ma vabbè, reagì distinto. Le persone che si nascondevano nelle cantine, incredule e incuranti del pericolo, uscirono dai rifugi e si recarono di corsa sulla sponda, cercando il ponte. Centinaia di uomini, donne e bambini, sbalorditi, fissavano il vuoto e la voragine. Il vecchio non c'era più. Gridavano, piangevano, minacciavano, maledicevano, alzavano le mani verso il cielo e chiedevano perché. Ha scritto così nel suo diario Smemal Humo, poeta di Mostar. E l'ultima di queste impressioni, proprio dopo il crollo, ci viene da un soldato che dice: ho saputo dalla notizia mentre stavo in trincea in prima linea. Mi sentivo come se qualcuno mi avesse colpito allo stomaco con una mazza da baseball. Questo era Goran O. Non si sa il cognome. Ho pianto perché ho capito che avevo perso non solo il vecchio, ma anche la mia città e per sempre. Queste erano le vicende del ponte, dello Starry Most di Mostar, e a raccontarcelo anche in musica è Lalli con Mostar dall'album Tempo di Vento del 1998. Thank you. nuvole fredde qui fra le mie dita. Too soon, the shot is soon. Questi invece erano i Fugazi, Downed City, dall'album Red Medicine del 1995, la città rovesciata, si potrebbe dire, dei Fugazi. E nel frattempo ci arrivano gli SMS che dicono viva Mostar e il Ponte Ottomano. Effettivamente ci associamo e proseguiamo ritornando sempre nella vecchia Europa. E ok, adesso si impone di dover parlare a lungo di Londra, perché se parliamo di città può piacervi, non piacervi, ma comunque di Londra se ne deve parlare. Almeno io ne voglio parlare, poi voi fate come vi pare. In particolare iniziamo dagli Anti-Nowhere League, perché lo sentirete, è il pezzo proprio che secondo me è perfetto per iniziare a parlare dell'Inghilterra, in particolare di Londra. L'album è We Are The League del 1982 e il pezzo è Street of London, che tra l'altro fu un discreto successo quando fu fatto uscire e nel febbraio del 1982, appunto. E però il lato B conteneva il pezzo So What, per cui il gruppo venne denunciato per il testo. Il disco venne ritirato dai negozi, insomma, casino, scandalo, eccetera. Pochi mesi dopo uscito, oltre al disco, cioè il singolo, uscì invece proprio tutto l'album, appunto questo We Are The League. E nel frattempo, peraltro, poi il gruppo continuava a suonare in tour in Europa e in America. E come testimonianza di questo tour, appunto un po' turbolento, rimane Live in Yugoslavia, per l'appunto, uscito ad aprile del 1983. E tra l'altro ci furono pure lì diversi problemini con la polizia slava che voleva sequestrare il master originale. E vabbè, alla fine sono sopravvissuti e quindi noi ci possiamo ascoltare Street of London dei Anti-Nowhere League. We'll be right back. I like to walk in the summer breeze, down Darling Road by a dead old tree. I drink with my friends the Hammersmith Broadway, the dirty, delightful old drunken old days. And the winds are going down, and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you'd spend all your time, and the old man that was singing when the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill that comes to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation, and I haven't got a penny to wander the dark streets of London. Continuano gli Isms diretti al Wombat dai vari wombati e le wombatesse sparse per i vari angoli del pianeta, le varie città, e mi dicono devi citare Chesterton, Londra è un enigma e Parigi una spiegazione. E in effetti, oltretutto devo ammettere che, ve lo dico subito, non parlerò di Parigi, no, è andata così, non l'ho fatta apposta, giuro, però mi è venuta così, niente Parigi, pour vous, quindi che si deve fare? Rimaniamo anzi invece sull'enigmatica Londra. Questi erano i Pogues, Dark Streets of London, britannicissimi proprio i Pogues, l'avete intuito. L'album era Red Roses for Me del 1984 e non vorrei sbagliare, ma potrebbe essere il primo vinile che ho comprato, o al massimo il secondo. Comunque in ogni caso ci sono molto affezionata e sì, gli irlandesissimi Pogues secondo me sono altrettanto perfetti per descrivere la Londra di quegli anni. Proseguiamo e direi che ora butto lì una frase da cioccolatini, ma le rivolte in qualche modo fanno parte di una città, ne sono un po' il cuore, o meglio, bello o brutto che sia. E per parlare seriamente di Londra si deve anche per forza parlare delle sue rivolte, ad esempio quella di Brixton, ovviamente. Nei primi giorni di aprile del 1981 la polizia metropolitana cosiddetta, iniziò la, quella che chiamavano l'Operation Swamp 81, un'operazione in borghese, anche se insomma vabbè, volta a ridurre il crimine cosiddetto, tutto cosiddetto. Gli agenti di polizia iniziarono a girare appunto in, in borghese nei quartieri di Brixton e avvalendosi di questa legge che si chiamava la Sus Law, SUS, non so come si legge, praticamente era una legge che consentiva di fermare e perquisire un po' come gli pareva le persone sulla base solo di un sospetto che quelle persone potessero commettere o stessero per commettere un reato, insomma, un po' sul un processo alle intenzioni, neanche un processo, proprio direttamente una punizione subito. E, quindi non occorreva cogliere quell'individuo nell'atto del crimine, ma si poteva ipotizzare che comunque era furbetto e l'avrebbe commesso, o magari gli andava di farlo. Con questa legge simpaticissima, ricordiamo sempre la Thatcher dell'epoca, insomma, mai abbastanza dimenticata, la polizia perquisì più di 1000 persone nell'aprile dell'81, ricordiamo, insomma, il tempo era quel, lasso di tempo era quello. Il 10 aprile del 1981, intorno in questo clima meraviglioso e ridente, intorno alle 5 del pomeriggio, Michael Bailey, un ragazzo della comunità afro-caraibica, fu fermato da un agente di polizia e successivamente, subito dopo, fu ritrovato dai suoi compagni per strada, sdraiato in terra, in gravi condizioni fisiche, ferito da 4 coltellate. Si radunò la folla, ovviamente, e la polizia arrivò e non faceva niente, non prendeva nessun provvedimento, neanche chiamare i soccorsi, non lo medicava né niente, quindi la gente che si era radunata lì cercò un po' bene o male di intervenire. A un certo punto la polizia si decise che finalmente forse bisognava soccorrere questo ragazzo, e lo caricarono su un'auto, lo portarono in ospedale, ma ormai era troppo tardi e questo ragazzo arrivò in ospedale in condizioni già veramente ormai troppo critiche. E la morale era che ovviamente sul caso si diffusero varie voci, la maggior parte delle quali diceva che il ragazzo era stato ucciso dalla polizia, chissà come gli era venuta in mente questa ipotesi, mentre altre voci dicevano che i poliziotti arrivati sul luogo pensavano che questo ragazzo stesse fingendo di essere stato accoltellato con un sacco di pomodoro addosso e via via. Da lì ovviamente successe il delirio. La sommossa principale dei cosiddetti riot di Brixton partì l'11 aprile e viene anche chiamata Bloody Saturday, sabato nero, ma insomma un po' tutto viene chiamato Bloody qualche giorno della settimana, così la chiamava il Time, e si concluse con almeno 280 feriti tra i poliziotti, 45 tra chiamiamoli manifestanti. Più di 100 automobili furono date alle fiamme, di cui 56 della polizia. C'è almeno 150 edifici furono danneggiati, una trentina bruciati, e alla fine si contarono in tutto 82 arresti, tra l'altro molti dei quali vennero liberati poi in seguito e le accuse caddero. Il Guardian riportò che agli scontri in tutto questo, che durarono circa 2 giorni, potrebbero aver partecipato fino a 5.000 persone. Questa era la realtà di Brixton di quegli anni. In realtà Guns of Brixton, che andiamo a sentirci, come penso avrete intuito, è stata scritta in realtà 2 anni prima dei riot. Riot che peraltro si diffusero ben presto nel resto dell'Inghilterra e si ripeterono anni dopo e comunque continua a ripetersi ciclicamente, a conferma del fatto che il clima, insomma, che si respirava era ben noto a tutti e non ci voleva certo una palla di vetro per immaginarsi cosa sarebbe successo di lì a poco. Questa è la versione di Guns of Brixton dei The Clash, ovviamente, però non originale, ma reinterpretata dai patinatissimi e soffionissimi Novel Vague. Kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, how are you gonna? You can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton. Shot down on the pavement, waiting in death row. His game's called surviving. As in heaven, as in hell. You can bruise us, but you have to answer too. Thank you. E dopo aver raccontato delle rivolte di Brixton, mi sembrava che, come dire, fosse appropriato e ci stesse bene farvi ascoltare gli Asian Dub Foundation. Questa era A New London, A New London High. L'album era History of Now del 2011, una effettivamente occhiata un po' più contemporanea, beh, non che quell'altra lo fosse poi di meno in realtà, però alla Londra di allora. E abbandoniamo Londra, ne abbiamo parlato direi abbastanza, e proseguiamo con un'altra città che è una città che non esiste più, o meglio esiste ma si è trasformata. Parliamo di Pompei perché l'occasione ce la dà la canzone, il brano Cities in Dust dei Six in the Banshees, che è un brano che appunto racconta della città di Pompei distrutta, come ovviamente sapete, in un'eruzione vulcanica nel 79 d.C., scoperta e riportata alla luce millenni dopo, secoli dopo. Tra le altre cose, nel testo che racconta proprio dell'eruzione di quegli ultimi momenti visti in prima persona, nel testo si parla dei Lares Familiares, ovvero i Lari, se vi ricordate dalle elementari e via. I Lari sono delle figure della religione romana, ve lo ricorderete, che rappresentano gli spiriti protettori degli antenati defunti che vegliavano sugli abitanti della casa, i protettori della casa, o per i più normodotati della famiglia sacra, ma insomma diciamo della casa. Tra l'altro Apuleio invece affermava che anche l'anima umana è un demone e che gli uomini diventano lari se hanno fatto del bene, fantasmi o spettri se hanno fatto del male, e invece mani se è incerta la loro qualificazione. Quindi sappiate che avete queste tre scelte. Molto probabilmente il culto dei Lari era stato indotto dall'antica tradizione di seppellire in casa i morti, e questo più o meno è quello che ha influenzato Siuxi insieme all'aver visto, aver visitato le rovine dell'antica Pompei. Siuxi, appunto, che di cose oscure se ne intendeva, in un'intervista dice: era il nostro primo viaggio a Pompei, un'esperienza incredibile. Vedere un'intera civiltà pietrificata nella lava era come trovarsi lì in quello stesso momento, immaginarsi come doveva essere quando successe. Mi è venuto molto facile ricavarne delle immagini fantasma della quotidianità così com'era. Spesso mi chiedo se sono proprio questo i fantasmi, la tua immaginazione e i tuoi sensi che riportano le cose in vita. Questa quindi è Six in the Banshees con Cities in Dust. Thank you. Fortune is running, children were running. We found you hiding, we found you lying. Water was running, children were running. We found you hiding, we found you lying. Dopo Siux and the Banshees con Cities in Dust, l'album, non l'ho detto prima, era Tinderbox del 1985. Rimaniamo un po' in Italia, sempre che potessimo dire, definire Italia Pompei, con Nick Gray and the Random Orchestra, che è un gruppo veramente difficile da descrivere e collocare, sempre che sia giusto e sano cercare di collocare della musica da qualche parte. Io non lo credo e quindi non ci provo neanche. In ogni caso, a seconda dell'album e del singolo brano, potreste farvi un'idea completamente diversa di questo gruppo. L'album, in particolare, da cui traggo il pezzo che vi sto per far sentire, è il terzo, Spin Was Under Arch. Chissà, non so manco come si legge, del 2008 comunque, e non assomiglia assolutamente agli altri, però come gli altri album conserva un sano sarcasmo di fondo assolutamente affascinante, per questo che il brano che vi sto per far sentire si intitola Italian Cities Fight Smog. Thank you. stories are in passing. They are tales of dirt and fire. And the rot, it is progressing. So hold me for a while. Cosa? Chic di nuovo qua, sempre su Wombat Radio ovviamente, Radio Wombat, e questi erano i Kalashnikov con Metropoli dall'album Songs About Amore e Revolution del 2003. E in effetti vi avrei potuto mettere anche un sacco di altri pezzi che mi vengono in mente via via, Metropoli, Decontrazione o Vivo in una città morta dei Blue Vomit, ne avrei potute mettere un sacco, ma mi sono dovuta contenere. Vi ricordo che ancora non l'ho fatto, i social Wombat, ovvero principalmente il sito wombat.noblogs.org, dove potete controllare tra l'altro le evoluzioni del nostro palinsesto. Vi annuncio che qualche cambiamento sta già avvenendo, ad esempio è ricominciato a Coccoli al Silicio con un nuovo orario, un nuovo giorno, ovvero la diretta è il venerdì alle 3, sì, alle 3, alle 15, e prossimamente inizieranno tantissime altre trasmissioni, sono proprio lì che stanno bollendo in pentola, pronte per voi, e direi che per la fine del mese, inizio ottobre, ne avrete delle belle, tra cui anche la revancia che ricomincia, insomma varie cose. Quindi tenete sempre d'occhio il sito wombat.noblogs.org e per comunicare con noi anche la casella di posta, ovvero posta wombat@insiberia.net. Questi i social Wombat, socievolissimi. Proseguiamo con il, questa volta usciamo un po' dall'Italia e dalle metropoli varie, arriviamo in Egitto. Il 25 gennaio del 1952 le truppe britanniche attaccarono la polizia egiziana nella caserma del Cairo, dopo che gli ufficiali egiziani si rifiutarono di dare la resa. 50 agenti del corpo militare egiziano furono uccisi e circa un centinaio gravemente feriti. Fu la prima goccia che cominciò a far traboccare il vaso. I disordini che ne conseguirono, in realtà quelli di cui parliamo oggi sono in particolare gli incendi, venivano appiccati nei quartieri residenziali del Cairo, che di fatto poi passarono alla storia come l'inizio della fine della monarchia. A mezzogiorno del 26 gennaio comincia, appunto del 52, comincia l'incendio del Cairo, Cairo Fire, quella che viene chiamata dagli egiziani la seconda rivoluzione, la prima era quella del 1919. Furono incendiati un sacco di cose, cabaret, cinema di lusso, caffè alla moda, i luoghi che di fatto erano il simbolo dei privilegi. Furono incendiati grandi negozi e anche vari club, Turf Club, lo Shepherd's, la Berkeley Bank, insomma banche, e varie tantissime altre cose, in parole povere i simboli del bel mondo coloniale dell'impero britannico. La rivoluzione fu finalmente, lapsus freudiani, fu inizialmente volta a disfarsi del sovrano, ovvero Re Farouk I, ma il movimento rivoluzionario militare deciderà l'anno seguente di abolire la monarchia costituzionale e di trasformare l'Egitto in una repubblica. E poi, come spesso è accaduto, l'abbiamo visto anche recentemente, le cose non sono andate proprio bene. La rivolta di fatto si è trasformata in un golpe militare e in un susseguirsi di poteri alterni, ma noi rimaniamo a quei Cairo Fire a cui probabilmente si ispirano, insieme a un sacco di altre cose peraltro, invece i Cure con ovviamente Fire in Cairo. My name and I yearn. Ovviamente Fire in Cairo, l'album era Three Imaginary Boys, il primo album del 1979, album bellissimissimissimo secondo me. Proseguiamo velocemente perché ancora c'è un po' di città da visitare e andiamo, un po' c'eravamo stati in Irlanda ma cioè con i Pogues ma poco, vabbè, ora arriviamo definitivamente in Irlanda con Christy Moore. Che in questo caso ci suona Back Home in Derry. L'album è Ride On del 1984, album che mi sento di consigliarvi un bel po'. In realtà Back Home in Derry, il testo è stato scritto da Bobby Sands, come anche altre canzoni portate alla luce da Christy Moore. Bobby Sands appunto scrisse questo testo come poesia durante lo sciopero della fame in carcere e subito dopo la morte di Bobby Sands già circolava una versione cantata con un'altra melodia. Però Christy Moore, che si trovava a Derry per una serie di concerti, la sentì in più occasioni e trascrisse il testo abbinandolo questa volta alla melodia Rake on the Rake of the Edmund Fitzgerald, avevo perso il rigo, di Gordon Lightfoot. E l'ultima strofa, tra l'altro, è quasi sicuramente autobiografica e invece della colonia penale in Tasmania di cui si parla, in realtà si parla di The Maze, il labirinto, ovvero la prigione di massima sicurezza in Inghilterra, costruita proprio nel 1976 con i famigerati H Blocks. Questo è un pezzettino del testo. Nel 1803 prendemmo il mare dalla dolce città di Derry, diretti in Australia, a meno di non annegar tutti. Le tracce lasciate dai nostri ceppi erano pesanti, in rugginose catene di ferro gemevamo di pena. Lasciammo le nostre brave donne nel dolore e mentre le vele si spiegavano urlammo maledizione agli inglesi e le preoccupazioni per il domani. La Tasmania è un inferno per un uomo, per vivere tutta la sua vita in schiavitù, laddove il clima è orrendo e l'arma è legge, e né al vento né alla pioggia importa del coraggio. Sono passati 20 anni e ho scontato la mia pena, i fantasmi dei miei compagni mi camminano al fianco, sono arrivato da ribelle e di sicuro morirò ribelle, mi ritroverete una fredda notte d'inverno, come vorrei tornare a casa a Derry. Thank you. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our fetters we carried. In the rusty iron chains we cried for our wains, our good women we left in sorrow. As the mainsails unfurled, a curse as we heard on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. O'Doherty screamed, walking out of a dream, by a vision of bold Robert Dyer. The sun burned cruel as we dished out the gruel, Dan O'Connor was down with a fever. 60 rebels today, bound for Botany Bay, how many will reach their receiver? To hell as our bow fought the swell, our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43, we buried our comrades each morning. In our own slime we were lost in the time, endless night without dawn. Demon's land is a hell for a man to end out his whole life in slavery, where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor walk behind me. A rebel I came, I'm still the same, and the cold winds of the night you will find me. E veniamo a Istanbul. Istanbul ce la raccontano gli altri, che è un bellissimo gruppo savonese di amici. Sì, non ridete, si chiamano così, gli altri. Bene, sì, vedete, guardate i volantini e le locandine, c'è da sbellicarsi. Sebbene sia uscito da poco il loro nuovo disco, che vi consiglio caldamente peraltro, l'album invece da cui è tratto questo pezzo invece è il primo, ovvero Fondamenta Strutture Argini del 2013, che è coprodotto, ovviamente un disco DIY, do it yourself, autoprodotto, e coprodotto da Taxi Driver Records, Dreaming Gorilla Records, QSQDR, Savona Sotterranea, Rude Records, Bus Stop Press, Bori Punk Asso, Collane di Ruggine, Buridda Distro e Salterò Autoproduzioni. Gli altri si caratterizzano per essere sempre coprodotti da un sacco di gruppi, l'ultimo da proprio un miliardo di gruppi, e cioè di etichette, scusate. Quindi dicevamo, gli altri con Istanbul. questi erano appunto gli altri, e rimanendo sullo strumentale passiamo a parlare di Praga, non con un aneddoto in particolare, ma con non le parole, ma la musica dei Nilo in Impression. Mi ricordo di aver sentito la prima volta questo gruppo, i Nilo in Impression, appunto, a un Sons of Vesta Fest al Next Emerson a Firenze, anni e anni fa. Il Sons of Vesta Fest era il festival dedicato all'omonima etichetta DIY del giro aretino della crisi, Rain, eccetera, insomma, per capirsi. Era un festival bellissimo che rimpiango tanto, e potevi ascoltarci cose che difficilmente avessi scoperto altrimenti, e peraltro sarebbe stato un peccato perché molte di quelle cose me le sono portate dietro per anni. Tra questi i Nylon Impression, che erano una vera e propria orchestra di fatto, anche se piccola, con archi e tutto, e mi lasciarono veramente a bocca aperta. L'album da cui è tratto Prague è For a New Grammar of Feelings del 2004, Nylon Impression Prague. Thank you. dopo Praga ci spostiamo, torniamo in Italia e lo facciamo tramite l'Enfance Rouge, perché dobbiamo parlare di Otranto. L'Enfance Rouge sono altri amici di cui è impossibile dire la nazionalità perché non ne hanno o ne hanno troppe. L'Enfance Rouge e i vari progetti altri in cui i suoi membri gravitano sono ancorati alla geografia, una geografia però dai confini annacquati, come dire, mescolati, smembrati e fusi insieme, come è giusto che sia. Questo disco, Trapani Al-Kalwadi, del 2008, pubblicato dalla Wallace Records e dalla T-Rec, è un disco registrato tra Tunisi e Lecce, con arrangiamenti di Mohamed Abid, che è un maestro indiscusso di Oud all'interno dell'Orchestra Nazionale della Rashidia. E quindi questa è Otranto, la loro Otranto, una città qui definita dal suo respiro e non dal confine tracciato su una stupida mappa. Yeah. eccoli qua, finiti così brutale, l'Enfance Rouge con Otranto e la Wombat Agenda. Arriviamo alla Wombat Agenda e sarà veloce perché c'ho solo un appuntamento per questa settimana dagli spazi liberati fiorentini, almeno che io sappia e che ci sia scritta qui nella agenda della Wombat Caverna. Se ovviamente ve ne vengono in mente altri e ce li volete segnalare, vi ricordo di nuovo postawombat@insiberia.net. E l'unico appuntamento della settimana che ho segnato è venerdì 15 settembre al CSN Ex Emerson con un concerto del collettivo Nuovi Rumori, che riprende così la stagione del 2017 con Crippled Fox, Trashcore Heroes da Budapest, Satanic Youth, ormai penso riconoscerete, ma comunque diciamo punk 80 dalla Spezia, gli Abortive, Fast Hardcore da ovunque, Lulu, Fastcore Milano e i Carlos Dunga, ovviamente i brutti di casa cosiddetti. E questo è più o meno quello che c'ho scritto sulla Wombat Agenda. Non c'è molt'altro, ma sicuramente ci sarà altro che io non so, perdonatemi, ma me lo dovevate dire. Proseguiamo e siamo quasi a fine perché abbiamo solo due brani da ascoltarci, d'altronde se no andiamo troppo per le lunghe. E dovete sapere che ieri la nostra bobina, o come la chiamano a Radio Blackout il bobinone, o come la chiamano su Onda Rossa il compagno automatico, noi la chiamiamo bobina, e si era incastrata insomma. E il pezzo che vi sto per far sentire avrà girato circa 80 volte, quindi l'abbiamo odiato un po' tutti noi che la stavamo sentendo. Sperando che ieri non foste in ascolto, ve lo ripropongo oggi fischiettando, facendo finta di nulla, perché in realtà non si può parlare di città senza citare questo brano assolutamente fondamentale. Se non siete mai stati a Vaiano non sapete di cosa parliamo, ma chi è nato e cresciuto in qualsiasi di questi paesi toscani in realtà ha perfettamente in testa l'effetto che fa. Sicuramente almeno lo sanno diaframma, questa è Vaiano. Voglio andare a Vaiano per provare di nascosto l'effetto che fa quel verde che è primitivo e trovare un disperato ma reale aggancio con la realtà. Voglio andare a Vaiano con mia zia che è maestra ed insegna là, e senza tanto baccano un monumento son sicuro prima o poi qualcuno le innalzerà. Erba verde, erba alta, che da lontano sembra schiuma. Erba verde, erba alta, fossi una mucca ci immergerei la faccia. Voglio andare a Vaiano per il campo di calcio che ho visto là e toccare con mano un mediocre ma reale disperato aggancio con la realtà. Voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano e trovare un disperato ma reale aggancio con la realtà. Voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano, voglio andare a Vaiano. We'll be right back. Ecco, abbiamo fatto, non ve la faccio più ascoltare per un bel po', ve lo prometto. E basta, siamo finiti all'ultimo pezzo della nostra scaletta, che beh, direi chiude decisamente in bellezza, ma in maniera alquanto disturbante, perché si tratta degli Stooges con un pezzo incredibile di quasi free jazz, che pare partorito da John Zorn, e invece no, invece erano gli Stooges nel lontanissimo 1970, e ci raccontano nella loro strana e bizzarra maniera Los Angeles, perché siamo partiti in scaletta dagli Stati Uniti e ci ritorniamo a chiudere. Non l'ho assolutamente fatto apposta, ma così è, e questa infatti è Los Angeles Blues, LA Blues, dall'album Fun House del 1970, un altro bel dischino. E con questo vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 21, e alle nostre repliche di Slick Chick in particolare, perché quelle mi ricordo, ovvero venerdì alle 14 e sabato alle 16. Quindi, però, io ovviamente vi, in maniera molto egoista, vi consiglio di sentirci in diretta il mercoledì sempre intorno alle 9. Ma con questo vi saluto quindi, e vi lascio in compagnia dei disturbantissimi Stooges a mercoledì prossimo. Ciao ciao!